Gioventù, ci siete? Attenzione ragazzacci, ci siete? Tutti al mare, tutti al mare, ad abbronzare le chiappe chiare. Ascolto, certo, avanti, io ascolto, ma tu mi sembra che non ascolti. Natta, tu sì. Natalino, Natalino, la vecchiaia in canettino. Antonio, attento Antonio, riserva. Chi è? Ciao, no, è basso basso, Santiago 3, quasi mezzo al correme. Faccio fatica ad ascoltarti. Ma non te l'hai alzata la antenna? Vabbè, faccio fatica ad ascoltarti, Sta alzando il correme, sta cambiando anche il tempo, quindi è difficile. Vabbè, dai, ti saluto, sento che stai parlando ma non riesco a capirti. Ciao, ciao. Forse che ci vivo, tanto sono dentro a casa. Va bene, Gavino. Andato dai 60, 80, 100 watt, quello di io, forse un pochino di più perché è stato toccato, ma ce l'ho fatto io, lui non lo do. Ce l'ho io, lui mi dà emulazione anche 130 watt. E perché ti sei abbassato ora? Adesso sì. Io ne ho una buona, ma ci prendiamo gli sghigli. Guarda, io vedi. Questo è con l'eco. Sei basso, sei di nuovo basso. Meglio me, è bene tu. Santiago 5, ma sei tutti messi male. Tutti messi male con le antenne. C'è Ginko, Santiago 3, dosi ottica, gli ho fatto per l'antenna. Eia! Se non mettete su le Game Master. E così è. Adesso una è pronta, fra un po' la metterò su, Se si riesce a darmela. Azzardo! Davvero! Davvero! Tio, mi senti? Certo, ciao Luca. Come stai ascoltando ti? Solitamente con le orecchie. Aiuta, bene mi stai ascoltando. E ti pare che prendi il pezzo di un col martello, Davvero? Guarda, sentiamo quasi 9, tu. Ah, ok, la radio è buona? Ottima di... Ah, ok, microfono normale, c'è ne fai di aria, a me altro. Tu sei segnale 1 qua. Tino è 9, provati. Ah, io sono piccolino, 9,20 senti. Vabbè. Dai Antone, la piazziamo anche lì l'antenna, dai, tranquillo. Un antennino magari, ma anche piccolo, non so se la puoi mettere 50 avi poi, E comunque tu, ho trovato la taglia Maxi. Cioè praticamente ti è ritornato nuovo dal negozio. Ho detto, sono andato là, ho trovato le taglie forti. Sì, ma quelle semplici stai dicendo, no, vedi, non le ho preso le altre, giusto qualche disegnino, qualche cosa così, dai, giusto per usarle un giorno per uscire gli altri rimanenti per lavoro. Lo so. Ma stavi dicendo Luca? No, Antonio, stavo dicendo, quel telefono l'ho provato ed è perfetto, praticamente è ritornato nuovo come se l'avessi comprato dal negozio. Luca! Meno male non si è mangiato i contatti, dimmi sì. Questo è normale lo stesso, il Lincoln. Ascolta un po', non è che ti trovi un tablet fra le mani? Antonio, tu ce l'hai il tablet? Vabbè, portamelo Antonio, vediamo un po' se riesco a fare. A casino te ne vai! Quello litigante per favore, Bastardo che... Quello litigante per favore, io ho giocato un tablet che mi serve per Nicolas. Prova, chiamalo, sì, sveglia, è già tardi, guarda che ne so, vediamo che ne so. Anto, è già mezzo giorno, l'ora dei pavesini, insomma, bisogna chiamarlo, Ho capito. Vabbè, fammi sapere. Sì, comunque non andava bene anche Lincoln, lo ti esigiamo. Ti piace lui? È quello che mi ha riparato Fabrizio. servizio, vabbè, qualcosina in meno, però meno amplificazione anche perché col microfono standard, vabbè, ma quello è da salotto, quello lo uso la notte quando modulo, rilassato nel divano, capito? Sì, io già ho giugato, c'ho il mobic, ma se lo vediamo un po', boh. Non so se farmo dei soldi, adesso vediamo, ora, se no rimane in chibi e se la abbiamo in luce. Perché non è che mi domanda la magna. Io sto vendendo una cassetta di banane, se serve a qualcuno. Ascolta, ho anche un chilo d'arance, però, ma di campagna. E anche quelle ce l'ho, va bene. Buongiorno, buon sabato, buon fine domenica, buon inizio settimana per lunedì, ci sentiamo, ciao. Ciao, omnis pro nobis, la terra su di te, hai dato la benedizione anche se stai andando. Ciao Claudio, ciao. Buongiorno Giovanni, sono andato a salutarvi, doverosamente a salutarvi, per il resto noia. Ciao, ci sentiamo. Ma senza fare né allusioni né niente, quando sei qua con noi puoi anche parlare, non è che... non ti diciamo di abbassare l'amplificazione o di abbassare il watt, puoi parlare tranquillamente. Potrei dirti la stessa cosa, che qua da me sei sato e sei 9,25, quindi date una regolata e date una calmata. Per il resto puoi fare ghiaccio che ti pare ti piace, ciao, querati per me. Come sul sacro? Vai che c'è la finestra aperta e guarda bene. Sacro è morto. Vabbè, ti... io dico quello che è vero. Per me sei saturo, la voce è compressa, non è limpida come deve essere, c'è una leggera saturazione e sono più che sicuro, ciao. Guarda, sono più sicuro io invece che non è così, guarda adesso, le lascio perdere le stupidaggini. Era troppo forte poc'anzi, cioè, stavo facendo un collegamento a sorso e quindi ho dovuto alzare il VAT. Tu puoi ascoltarti e dire quello che vuoi, io dico quello che penso. Per me la modulazione non è limpida, è leggermente compressa, ok? La tua modulazione io ti posso dare il 90%, per quel 10% sei compresso, poi tu sei libero di pensarla come vuoi. Io quello che vedo e quello che sento dico, ok? Ciao. Bene, bene, va bene. Lasciamo così perché sono per portare così. Comunque, va bene, grazie. Grazie Antonio. Buon sabato, buona domenica e buon inizio settimana anche per lunedì, che tanto non ti intendiamo. Ciao. Sì, lascia così Tino. Lascia così, ha migliorato, però non aumentare di più e non dare più ingresso. O regola meglio se stai usando le valvole, perché io ti ho sentito così nel primo passaggio, nel secondo hai migliorato. Ok? Ciao. Sì, hai ragione. Ho esagerato io poc'anzi, perché? Questa è la solita, eh? Questo va bene, lasciala stare. Mi fatti sempre un riferimento, perché altrimenti è brutta da sentire. Lo sai che io quando do i controlli li do precisi, non come qualcuno che li dà solo per far contento la gente. Va bene, ho parlato troppo, dai, adesso ero 5 giorni che non entravo. Ho parlato già troppo, ci sentiamo alle prossime comunicazioni. Nonna Giovanna, a proposito, guarda che c'è una foto su Ari Firenze, la sto vendendo tutto da là alla Z, mettendo solo le V e le U, tutto vuol dire 2500 euro più un regalo anche le direttive. Vabbè, ma a me non tutto non mi interessa, mi interesserà qualche cosina se mi tratti bene e come mi tratti. No, ti ho messo tutto in blocco, non posso vendere a pizzi, ho messo tutto in blocco. Capito, ed è un prezzo che mi hanno già detto, vabbè, se sono pazzo, perché ci sono 2 HF e mezzo, anzi diciamo 3 HF, che solo quelle valgono 1500 euro, forse anche di più, capito? Comunque vabbè, questo è il mio risultato, mi sono rotto i coglioni e quindi me ne vado, abbandono, adesso sto aspettando il tempo buono, perché Massimiliano mi ha togliuto le antenne. Ciao a tutti, divertitevi, vi auguro tanto qua sia bello e a me non me la fotti più nulla, ciao. Sì, bene, cazzo, che sei pantofolaio, che... Oh, santa pazienza, va bene, è una tua scelta, è una tua decisione, fai pure quello che meglio credi, Claudio, sono con te. Vabbè, Anto, riprendi. Cosa, Anto? No, Anto, faccio solo le V e le U perché mi appassionano, le bande laterali, le cose, mi tengo i due gemellini della Icom e basta, il resto è tutto in vendita, se no il prezzo saliva perché un gemellino solo va dotato 450 euro, quindi due sono altri 800 euro in più, però vendo tutto, i microfoni ho già tutti venduti, c'ho solo 260 e basta, ne avevo 4, più l'MC80 l'85, li ho già venduti, ho venduto tutto, le altre radio ne ho venduto 2, me ne sono rimasti solo 2 HF, sennò non ci volevano 2500 euro a comprare la roba mia, ce ne volevano molto di più. No, mo l'ho tolto, intanto non c'è rimasto più niente, dai. Ho visto che non c'è più niente, è ora che Claudio Spaviero sparisca dalla circolazione, si tolga a mettere le balle, come qualcuno ha detto, e quindi va bene così, tolgo tutto, l'antenna e tutto, lascio solo la bibanda della Daimon e basta, questo tolgo tutto. Sto aspettando un tempo buono, avevamo appuntamento per questo sabato, ma cazzo, ne farei mirare a Dorra, va bene, dai. Buon divertimento a tutti, davvero, un abbraccio a tutti e continuate a fare quello che dovete fare. In armonia e in serenità a tutti, ok? Io vi auguro questo, poi chi mi vuole male pensi quello che vuole. Ciao, buon divertimento a tutti, alle prossime comunicazioni. Eia, va bene, dammi, mettimi da parte della Rema Italy, se mi interessa, solo di dar fuori. No, tu, i lineari non li ho messi in vendita. Lineari mi ritengo perché ho l'RM Italy HF e l'RM Italy V1, quindi quelli mi ritengo, non si sa mai che mi possano servire, capito? Lineari non ce n'è in vendita. Ehi, cazzo, se metto tutta la roba che ho detto che non bastano 5.000 euro. E c'è anche il... l'FL911 della Kenwood, figurati, che è quello prima del TL, cioè il TL911 della Kenwood, più l'FL2100, che il TL911 è prima del 922, quindi lineari li tengo, possono sempre servire un domani, non li troverò mai più quei lineari. Solo radio e microfoni, a parte naturalmente, chi vuole la radio col microfono normale, se vuole l'amplificato a parte. Comunque c'è un elenco su Ari Firenze, controlla, non c'è il mio nominativo, ma tu quando leggi stazione completa, radio amatore, 2500 euro, quella era mia, ok? Ciao a tutti, sto parlando troppo, ciao ciao. Va bene, ciao, buon divertimento. Vai Ciccio. Io mi sto facendo un bel aperitivo, Aperol, ciao anche a Claudio comunque, Aperol e arancia tamara, buono Aperol, hai capito? Ma Aperol, non ti piace tanto l'Aperol? Ah, Lucia, ginseng, ah cazzo, anche io, vabbè, oggi esco un po' meglio, la verità, però quando mi bisticca c'è un dolore, guarda, è un casino. Vabbè, fino a te ti piace l'Aperol con l'arancia tamara? Sì, però mi piace più il Campari con l'arancia tamara. No, a me piace più l'Aperol, il Campari è troppo amaro. A me piace quanto, solo che sto scarseggiando, insomma. No, allora io parlo, insomma, di cosa propria. Vabbè, dai. E allora, cosa stai usando ora, Ciccio? Metti l'eco, appena, aumenta appena. Sì, non è male, è che se basso il segnale non fa come dovrebbe fare. Allora, se tu usi l'eco, lo uso anch'io, me ne va. A me non piace, lo uso solo per fare balduria. Si mette anche il beat. Ma è vero, vabbè. No, io tanto lo lascio a Fabrizio perché c'era qualcosa da recuperare, mi ha detto che non, insomma, ormai quello là, il mio primo è farlo. Era, non so, faccio una cosa e si sbrocciava l'altra, quindi tra una cosa e l'altra riesco a fare qualcosa, fino per sentire i cambi e poi se dovesse servire qualcuno ce l'abbiamo. Kappa. No, io sto cercando un altro baracchino, però un po' più grande di questo, guarda, con qualche spinta in più. Però mi deve piacere, sono inutile averlo per non utilizzarlo, capito? No, quanto vuoi realizzare per quello, insomma? Vabbè, lo voglio vedere, se mi piace dal vivo, perché in fotografia molte cose non ho. non rendono, poi ti ho detto sei più grande di quello là, capito? E poi voi non ne voglia una cinquantina anche lui per aggiustarlo. Scappa. Sì, sì. No, vabbè, vediamo, vai. Poi ti farò sapere. Devo aspettare una risposta, capito? Una risposta che credo, non so, in serata o domani o lunedì mi daranno. Vabbè. Ma abbiamo lasciato il parcheggio a Gagliucci, Gagliucci sei ancora? No, non c'è. Luca, quello sta cucinando le cose. Ma a colpi però. Non è diretto, capito? Maledesso. È così. Dai, adesso vediamo. Vediamo cosa esce a vedere. Allora, Arturo, adesso vedo di recuperare le credenziali del telefono e ti do una spazzolata. Vabbè, ma nel caso mi serve giusto il codice titolare, poi vabbè la password, e poi cosa mi serve? Vabbè, l'email la posso rimpostare, perché o rimane quella. Sì, come cacchio faccio la verifica? Non ricordo più l'account di Google. E devo trovare anche, io ho un iPhone 7 da dargli a Luca, da mettere il vetrino, no, però sto aspettando un attimino perché ancora, insomma, dobbiamo aspettare il mese, capito? No, ma ne avevo già parlato, è che niente, no, lo voglio recuperare. Lo so, chi è che vuole entrare avanti? Ah no, non ho guardato, Gabino, adesso guarda. Scusa un attimino. Vediamo un po' se mi ascolta, Gabinuccio, mi senti? Pronto? Ok, vabbè, non c'ho l'antenna. Cosa Anto? Non ti sento Anto, c'è la 25 che sta parlando al telefono, non ti sento. Cosa hai detto? Ripeti. Ah, sono qua, c'è la 25 che sta parlando. Ehi, già ancora un poco, Gabino, no, ti ho mandato un messaggio, ascolta. Attenzione Antonio, un pinguino mi interessa un preventivo, grazie. E che te ne pare, beh, attento germano, vabbè. Luca. Beatino. Ti volevo ricordare che già non mi sono dimenticato di te per quanto riguarda l'iPhone, è che devo aspettare fine mese. Ehi attimo, tra l'altro ho già pronto il vetro. Anche se lo metti nero non succede niente. Pensate che funzioni. No, non c'è problema. Lo aggiusto e prendo una, il numero di telefono, mi serve una scheda, capito? E devo valutare un pochino quanto mi viene a costare, dove la trovo, perché ancora non ho fatto niente. Siccome è un po'... lo sto utilizzando, ma è meglio che c'è nuovo, là. Sì, beh, certo. Un altro numero ti comprai, praticamente. Sì, un altro numero. Ma stamattina ho guardato, solo che... Se i ragazzi costa di meno, però vogliono i documenti dei ragazzi. Mentre invece per me mi viene a costare 15 euro al mese, però non va bene. Sì, via. No, vabbè, ripeto, quello là, quel display è nuovo. Nuovo. Cioè, piazzato e staccato. E quindi Kena? E dove l'hai comprata tanto? Perché non sapevo neanche dove prenderla. E poi un'altra cosa, qua in campagna tu sei benissimo alla zona, funziona. Dove l'hai presa? Lì dove l'hai comprata? Ah, ho capito. Stamattina ero lì, porca miseria, a saperlo. Perché la team è cara, da Vodafone non sono neanche entrato. Avevo un carrello, quindi sono studiante per la macchina. Invece in zona di Sassari non ce n'è. Ho capito. Boh, adesso vediamo. Poi sto diventando mandrone in tutto, ok? Oggi se non piove un appuntamento di una tipa che viene a visualizzare un pochino, a visionare la roulotte, adesso vediamo. Vediamo il sognamento, no, le finestre nuove, bla bla. No, ho fatto ieri, è già servito per oggi, domani, certo va bene. Mi sono fatto 4 lattine ieri, giusto così, per non perdere il vizio. Buona volontà, anche io vorrei, ma... Stai chiamando tu? E qua sto parlando, chiacchierando, verticale. No, io fino alla fine. Ne rimarrà soltanto uno. Ma guarda, siamo sinceri, il corso è bello quando hai delle persone che ci vedono d'accordo, che sai di cosa stai parlando, che ti fai una chiacchierata così un po' generica, giustamente, se poi diventa monotona, parli sempre delle stesse cose, cazzo, no. Non entri neanche, quindi voglio dire, bisogna anche trovare un po' il giorno adatto, il momento adatto per poter fare questo. Allora, è così. Io oggi mi sono sentito con Luca Flipper, a una radio vintage, se vi interessa, la sta vendendo. Tutti vendendo e d'altronde, insomma, c'è un donatore che magari acconto lavoro, acconto qualche cosa, fa bene così, poi se riesce a ricavarne, che ne so, il tanto della giornata o qualcosa in più, meglio per lui, no? Ma una trappola, aspetta, la giro. Sì, una base, ma a gusti, dai, aspetta che te la giro. No, questo è, così c'è, è nuova, insomma, va bene, sto raccomandando. Girala anche a me. Meglia. Guarda, credo che voglia anche una sorta di cambio di un partner o qualcosa del genere. Giramela anche a me, intanto io quelli non li prendo, che faccio la collezione. Sì, te l'ho mandata tra un pace. L'ho avuta questa, molto semplice, molto spenta come radio. Ne va tutta golonina mega galattica e cazzo, potevano mettere qualche cos'altro. Cos'è, 23 canali o 40 canali? No, non lo so, non l'ho vista io, non mi ha dato solo la foto. Molto misera, non c'è manco Mickey Gay, non c'è niente, comunque una collezione potrebbe andare. Oh, scusate che ero in una chat, quindi? Ti ho detto molto misera, non c'è manco Mickey Gay, io ho il Polmar 7000, molto più completo di quello, però per la collezione potrebbe andare, vabbè, tengo in considerazione. Sì, vabbè, io ti ripeto, non so quanto la stia vendendo perché non ha detto il prezzo. Mi ha detto che forse faceva cambio anche con qualche mic, il Tarn più 3 o una cosa del genere, non so. Basta chiamare chi è interessato e parla direttamente con lui. No, beh, vediamo, tengo in questa foto in considerazione il fatto che c'è questo base, ma ti ripeto, molto misero e molto spenta come radio. Ciao lui. Felice io sono. Grazie Tino dell'informazione, del magari ascolto. Sì, ci mancherebbe altro, guarda, tranquillo. A me sinceramente sono radio che non mi interessano. Io cerco più stile americano, mi piace di più, una radio un pochino con lo smitter magari quadrato, grande, una cosa del genere, mi piacciono, però costicchiano, Vabbè, vedrò un pochino. Se ti può interessare ti faccio ridere, perché c'è da ridere. Nella foto appare anche il DAC, e uno mi ha offerto 450 euro per il DAC. E gli ho detto, guarda, anche se me ne dai 1000, quella lì scordatela, anzi ho rifatto la foto, e ho incaricato il mio carissimo amico radioamatore che è scritto sulla referenza, perché non sono iscritto, di rimettere la foto, infatti il DAC l'ho tolto, immaginati tu. Mi ha detto, ti do 450 euro per quella radio, perché è una radio a livello mondiale, è molto molto rara da trovare, e poi è troppo bella, bellissima. Ho detto, guarda, ho sbagliato a metterla nel mio sito per personale, però non quella, non la do. Le radio che tu vedi una sopra l'altra, guarda che quelle sono dei vintage e quelle me le tengo. Parti da lì in giù, quello è tutto in vendita, il resto non è in vendita. Figurati tu, cosa sono quotate quelle radio. Boh, non sono neanche presente, figurati, mandami la foto. Il DAC non l'hai mai visto la volta, ce l'abbiamo solo in 3 a essere il DAC. L'avevo visto, non ci ho fatto caso, ripeto, a me il vintage non è che mi interessa. Questo non è un vintage, questa è una radio americana con le bande laterali e 450 canali. Non è un gioco comprarla. Io l'avevo comprata a $420, figurati. E ti parlo di 5 anni fa, 4 anni fa, o forse 5, non so, non mi ricordo. Strumenti da paura, ogni strumento ha 4 strumenti che sono come gli strumenti della ZG, capito? C'ha tutto, rosmetro, wattmetro, modulometro, smitter, da paura, ti dà la tensione della nodica della valvola perché è un valvolare, ti dà la potenza in uscita, ti dà tutto chi su di voi, c'ha il fast, l'AGC come un HF, il fast, slow, la GC normale, tutto, ANL, NB, tutto, il clarifer, poi c'è le bande laterali, la calibrazione del rosmetro fatti, metro a parte, è troppo bella. Vabbè, ti mando la foto, ci sentiamo ragazzi che vado a preparare e mangiare al cane, ciao a tutti, alle prossime trasmissioni. Fai prima mandare la foto così almeno, va bene, beh. Antonio, usando duio. Allora, adesso a vedere qua cosa c'è di bello. Che cosa? Ah sì, quella, non so, magari, non so, l'ho recuperata, non so, sinceramente non so cosa dirti. Aspetta che ascolto un audio. Ora hai trovato la foto. Per la grandezza di quella radio lì, dal vivo ci vogliono due Galaxy, uno sopra l'altro, per arrivare alla grandezza di quella radio. Due Galaxy Saturn Echo. Ah, sì. Ma quella di giù, Sì, quella di giù, quella di sopra è un Polmar DX7000, 23 canali, che esce una schioppettata. Quella è molto bella lo stesso. Vedi che è più completa di quella là. Quella là è vuota, non va nuda. Adesso quando vado a svolgere me la prendo la provo. Sì, si accende ancora, me l'aveva fatto avere lui. Si accende ancora la sua, se funziona, io l'accendo sempre questa. L'accendo, la uso, vedi che c'è l'MB più 5 che inverte un po' sopra, un po' sotto. Però devi usarla perché altrimenti quelle valvole poi non si trovano, sono quelle strette, le 6-8B6. Sono molto difficili da trovare, quindi devi farla andare alla radio. Provala, non barrasone, peserà un 9,40, cazzo. Un barrasone, io l'ho messo lì per fare per quel buco, se no ce l'avevo sempre dentro l'armadio. Vabbè, quella è. Quella costa un pacco di soldi, quindi la volta se ti sto dicendo un pacco di soldi valutata quella radio, una radio americana, e non le manca niente, nulla. C'è le stesse cose che c'è un HF, uguale, di cose tipo la GC, cosa ti posso dire, l'NB con la NL, quindi lo sposti, c'è RF gain, mic gain, di tutto va, tutto, c'è anche la calibrazione per il rosmetro, guardala bene, guarda gli strumenti che c'è. Scusate che sono in audio. Vabbè dai, ti manca ancora X, a frappè signori, statemi bene, ciao a tutti, non riprendo più, ciao. Ehi, ciao, scusa, ho fatto dei messaggi che mi stanno mandando da Signori, quindi interessanti per via di una vendita. Fai Tino, ciao. Ehi, Anto, vabbè, non c'è più nessuno, mi sto alzando la sedia, eh. Anzi, la poltrona, perché io ho di quelle da corsa, di quelle comode, di quelle rosse, gialle, quelle da corsa, cioè per esempio, tipo macchina da corsa. Vabbè, per me la tua solo, ciao. Ciao, ciao. Chi è che chiama da lontano, che lo sento il basso, chi è? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Attento, mio cugino, ascolta. ascolti a me. Uno, due, tre, prova, prova, mio cugino, attento. E allora qua, sta a posto? Sì, sta a posto. Andate, vabbè, va, mi sto voltando dalla poltrona perché è quasi ora di pranzare e quindi dobbiamo preparare. Sì, via. Ciao, buon pranzo. A più tardi, dai, coincide. Ciao, ciao.